Radio 24 Reportage. Budapest-Bruxelles, una battaglia di parole, di Gigi Donelli. So my name is Balázs Nagy Navarro. I was a journalist in the public media until I was fired. Il mio nome è Balázs Nagy Navarro. Io ero un giornalista della radio pubblica fino al 27 dicembre, quando sono stato licenziato in tronco dopo che avevo iniziato uno sciopero della fame in difesa della libertà di stampa e contro le manipolazioni dell'informazione da parte del canale pubblico. Tra l'altro, io sono anche rappresentante sindacale di una delle organizzazioni del lavoro presenti qui alla TV e radio pubblica, MTVA. Tutto è precipitato il 3 dicembre scorso, quando in un servizio dedicato ai cambiamenti al vertice della Corte Costituzionale è stata offuscata in post-produzione l'immagine dell'ex presidente della Corte, l'uomo che lamentava il cambio al vertice deciso dal governo. Il suo volto è stato offuscato artificialmente all'interno della scena, neanche se fosse trattato di un criminale. A quel punto, come sindacato, abbiamo preteso un'inchiesta interna ed è esploso un vero e proprio scandalo. Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmi tart. A kutyákat elengedtem, és a forgó szél elvitte a vihar. Bécsőnk, Vörösvári út. Az Orbán Balázs út következik. Al Kerület numero 3 di Budapest, il quartiere nord-occidentale alla periferia della capitale, si arriva in tram e poi a piedi, attraversando un alternarsi di palazzoni Bresniev e di villette bifamiliari di modello austriaco, con giardino annesso. Anche nel tessuto urbano della quotidianità emerge quel comunismo gulash che faceva sembrare l'Ungheria un paradiso di benessere socialista, soprattutto per chi arrivava da est. Poi c'è una fabbrica storica, nel senso che è quella del primo costruttore giapponese sbarcato qui proprio 20 anni fa, quando l'Ungheria sognava di diventare il Puma dell'economia in Europa centrale. Più avanti, quasi a lambire il Danubio che entra in città, c'è la nuova periferia globalizzata che si trova uguale a se stessa in tutta Europa. I palazzoni Brezhnev qui sono colorati, a tinte tenui. Gli stabilimenti sono ampi e moderni. Una struttura di vetro e acciaio annuncia poi la MTVA, la televisione nazionale ungherese che ormai da qualche anno ha lasciato i vecchi storici edifici in Piazza della Libertà per ampliarsi in periferia. Al numero 64 della via Cunigonda, una serie di palazzi nuovi, la serie di MTVA. Magyarorszky Televízió, la televisione magiara, qui una struttura nuova accanto alla quale c'è però una tenda che rappresenta la protesta di una parte dei giornalisti della televisione pubblica in sciopero della fame ormai da qualche settimana. Abbiamo scoperto dai nostri colleghi che si trattava di un vero e proprio ordine, arrivato dai vertici della rete perché quel volto non doveva essere più mostrato attraverso la televisione pubblica. L'indagine interna condotta dall'azienda è stata all'altezza di quelle che si facevano negli anni 50, durante il regime comunista. Quelle in cui prima si decideva il verdetto e poi si costruiva l'indagine di conseguenza. Pressata dalla protesta, l'azienda ha trovato 3 capri espiatori: il reporter, il capo servizio del giorno e il tecnico di regia che ha materialmente trattato l'immagine. 3 persone che, secondo l'azienda, avrebbero deciso autonomamente di manipolare l'immagine. A quel punto, come sindacalista, ho rigettato l'esito dell'inchiesta interna, dicendo che se non fosse stata fatta luce sull'intera vicenda, avrei iniziato lo sciopero della fame a partire dal 10 dicembre. E così è accaduto, insieme al collega Oran Kossui, anche lui giornalista e sindacalista, ed eccoci qui, licenziati e messi alla porta, letteralmente dove siamo qui, proprio davanti alla sede della TV e radio pubblica, con la nostra tenda e la nostra protesta civile. Honorable members, the issues at stake, however, may go beyond the European Union law matters that have been raised. Beyond the legal aspects, some concerns have been expressed regarding the quality of democracy in Hungary Il 18 gennaio scorso la questione ungherese è stata al centro della plenaria al Parlamento di Strasburgo. Il presidente della Commissione Barroso, di fronte al premier Magyaro, Viktor Orban, che era l'ospite d'onore della giornata, ha detto chiaramente che l'Europa continuerà ad osservare Budapest sui temi economici, ma anche su quelli della libertà di espressione. Ryan Heath, parlando per conto del commissario europeo all'agenda digitale Nelly Kroes, ci spiega in che modo. He wanted to hear directly from the people affected what the situation was in Hungary. Il commissario Kroes ha voluto conoscere personalmente i dettagli della vicenda Club Radio, l'emittente di opposizione che rischia di perdere 8 delle 11 frequenze che usa per le trasmissioni. L'incontro ha confermato le sue preoccupazioni per quello che sembra essere un significativo indebolimento delle condizioni che permettono l'affermazione di un contesto plurale e libero dell'informazione. Ci sono due filoni sui quali ci muoveremo come Commissione per quanto riguarda l'Ungheria. Il primo riguarda l'impianto giuridico, che sottintende il sistema dell'editoria. E in questo senso, già nel 2011, abbiamo chiesto e ottenuto l'intervento su 4 punti specifici della legge ungherese sull'editoria. Poi c'è un secondo filone che non riguarda tanto la legge, ma lo spirito, le condizioni, il clima in cui opera l'editoria nel Paese. E in questo senso è chiaro che lo sciopero della fame di cui parliamo è un segnale grave. Tutti devono capire che la Commissione continuerà a guardare la situazione da molto vicino. Non la lasceremo cadere fuori dalla nostra attenzione e faremo in modo che i diritti delle persone siano rispettati. Klub Rádió. Tények, vélemények. Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmi tart. A kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihart. Alattunk a tenger, szemben a napszuhant. Nyeljük a csíkokat, és a világ pajkos szellőként suhant. Tékozdó angyal a magasban, köpfent nincs, baj nincs haragban senkivel. Édurva szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Bolas Nagy e i suoi compagni continuano intanto il loro sciopero della fame. Proprio davanti alla moderna sede della MTVA resta dunque questa piccola tenda dove di tanto in tanto si avvicinano colleghi, amici, giornalisti stranieri, chi insomma sostiene e pensa che l'Ungheria sia davvero un paese prezioso, indispensabile alla costruzione europea. Un paese che sta attraversando una fase davvero complessa, dalla quale non uscirà certo riducendo la libertà di stampa. In the public service you have like 3,000 people working. Out of them probably like 1,000 who is considered journalist or something, who is making program, gathers technical and administrative part. Nel servizio pubblico ci lavorano circa 3,000 persone. E un terzo di questi sono i giornalisti. Già molti sono stati licenziati per ragioni principalmente economiche. E per quanto riguarda il sostegno, beh, devo dire che abbiamo più sostegno dalla società civile che non dall'interno della nostra struttura. Ma deve capire che qui la gente ha paura. Solo lo scorso anno ci sono state due grandi ondate di licenziamenti che hanno coinvolto 900 persone nella radiotelevisione pubblica. E quasi la metà sono stati proprio i giornalisti. E poi ora hanno visto che al nostro sciopero della fame, dopo 18 giorni dall'inizio dello sciopero stesso, l'azienda ha reagito licenziandoci. Insomma, io penso che l'80% dei colleghi qui dentro sia dalla nostra parte, ma farsi vedere alla nostra tenda è pericoloso. Ci vengono scrittori, giornalisti di altre testate, colleghi dall'estero come te, ma devi capire che qui ormai c'è un clima di paura. Yes, they have fear, c'è paura and it's very difficult. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.